grande cammino ci si perde in discorsi troppo grandi, dove le nostre belle idee ardono fumi a ciche spente. Forse qualcuno avrà capito che le parole giuste sono più costose di rabbia. Inespresso, turciti, respire, colpi di tosse, dei quattro alla ricerca della risposta, della risposta. Dove sarà questa marcia realtà? Dove sarà la tua marcia realtà? Inespressa, inespressa. Ma se proprio non la vedi, qualcuno ti controlla, qualcuno ti controlla e ti controllerà. Inespresso, inespresso. Inespressa, inespressa, inespressa, inespressa, inespresso, inespresso. Informazioni ormai non ce n'è più, e se vuoi sapere devi essere pronto a giocare più alto che puoi. Data inespressa, inespressa, inespressa, inespressa, inespressa, inespressa, inespressa, inespresso, inespresso. Oh, oh, oh. La legna si spinge, la luce è tremante, non resta che chiudere e andarcene. Fuori piove, la pioggia ripulisce l'anima, ripulisce.